amore diverso, un soffio di vento che abbraccia l'universo. Non conosci bene il tuo nome, non conosci una parola comune. Lo sguardo è sempre quello, un'ombra attraversa il tuo volto, punti interrogativi, domande storte, insonne passa questa notte. Ma che brutto non sapere, peggio ancora non ricordare. Sarebbe una vita da raccontare, un'ombra deciso di cancellare. Mano invisibile con uno squarcio nel cielo, il tuo sorriso rimane quello vero. Non puoi esprimere un solo pensiero, ti domandi chi sei, come si chiama, chi ti chiama, nonno, chissà. Poi la gente che ti sta attorno. Un'ombra ha deciso di cancellare.